Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, se vedo che qualcuno subito mi scrive, ma farà la puntata con Giovanni Tamburi e l'astrologa Grazia Mirti? Sì, la faremo il 24, come ogni anno, confrontando le previsioni di un famoso e importante private equity, che gestisce private equity, con invece l'astrologa che ha scritto il libro Investire con gli astri per la casa editrice Sole 24 ore. No, la puntata di oggi invece ruoterà attorno chiaramente a quello che sta capitando sulle borse, ma che si collega direttamente con la variante del Covid denunciata dalla Gran Bretagna, con quello che è successo ieri con i voli che bloccati in molti paesi. Adesso anche ho visto Spagna e Portogallo hanno bloccato i voli della Gran Bretagna dopo che la Germania li ha bloccati da mezzanotte, l'Italia ieri dalle 17 se non ricordo male. La domanda vera è: sono prese di beneficio su borse che erano molto salite, quindi si utilizza anche tra virgolette il pretesto di questa variante, perché ancora non sappiamo, anzi molti dei virologi che anche Radio 24 ha interpellato sembrano abbastanza concordi nel dire che non dovrebbe avere un impatto sul vaccino, quantomeno non un impatto significativo, per cui capire se è una scusa o invece una reale preoccupazione. Scusa lo dico perché sappiamo che le borse sono cresciute molto in queste settimane, meno 2,60% Milano, devo dire che perdeva anche di più, le borse erano arrivate a perdere intorno al 4%, meno 2,40 Parigi, meno 2,70 Francoforte, meno 1,70 Londra, meno 0,60 il Dow Jones. Però su questo il tema del blocco dei voli, addirittura anche del passaggio sulla Manica, sullo Stretto della Manica, si lega a un altro tema, perché noi abbiamo chiamato prove tecniche di Brexit, di hard Brexit, nel senso che tutto questo avviene nel momento in cui non vi sarà nessuna proroga, perché oggi lo ha chiarito anche il portavoce di Downing Street, si continua a negoziare e il tempo stringe chiaramente per una ratifica entro il primo di gennaio, anche perché il Parlamento europeo ha detto che da questo punto di vista i tempi non ci sono per quello che riguarda la Brexit, l'approvazione entro quest'anno. E erano impressionanti le immagini, non so se qualcuno ha avuto modo di vederle, delle centinaia di tir, erano migliaia, si sono creati 30 chilometri di code a Folkestone e a Dover, che sono i punti di ingresso in Inghilterra, per i tir che si possono imbarcare sul treno oppure sul traghetto. Perché? Perché quello che sta avvenendo, al di là della variazione del virus, è un aumento delle scorte di tutti i beni non deperibili, cioè nell'incertezza di non sapere come funzionerà poi l'approvvigionamento e soprattutto se vi saranno problemi alle dogane, perché è chiaro che se non c'è accordo tu perdi ogni status e vieni trattato come un paese extraeuropeo, nel senso più duro del termine, con conseguenti problemi forse alle dogane. Ecco, per non sapere né leggere né scrivere, chi ha potuto fare scorte, chiaramente si tratta di beni non deperibili, ha iniziato a farle. In aggiunta si teme anche il blocco, ma questo lo si teme adesso, perché i chilometri e chilometri di tir c'erano anche sabato e venerdì. Si teme il blocco imposto dalla Francia, che oltre a evitare i viaggi in aereo ha interrotto per 48 ore anche il trasporto merci tra le due sponde della Manica, sia via mare che via treno. Ecco perché il combinato disposto di queste cose, a cui possiamo anche aggiungere il vero e proprio esodo, la grande fuga, altro che l'Italia, qualcuno diceva ci sarà, in realtà in Italia tutto sommato in questo fine settimana non si sono segnalati particolari assembramenti né negli aeroporti né nelle stazioni ferroviarie. In Gran Bretagna invece a Londra vi sono state migliaia di persone che hanno cercato di lasciare la capitale prima che scattasse il nuovo lockdown, perché già Boris Johnson aveva annunciato che Londra sarebbe tornata rossa, poi c'è un'ulteriore stretta e quindi l'invito a restare a casa, a non viaggiare, e questo ha creato scattava a mezzanotte tra sabato e domenica, ha creato le migliaia di persone, treni stracolmi, autostrade intasate, il tutto per scampare il cosiddetto tier 4. È come se la Gran Bretagna aveva il tier 1, 2 e 3, come da noi abbiamo il giallo, arancione e rosso. Questo tier 4 è come se avessimo decretato uno stato di, i francesi lo chiamarono rosso porpora, se non ricordo male, sono perso anch'io il conto, di rosso cupo. Ecco, e da lì appunto treni stracolmi, autostrade intasate, l'M4, l'M3 bloccate, una grande fuga da Londra. Non è un periodo facile per la Gran Bretagna, ma anche nei rapporti con l'Europa. Il ministro dei trasporti britannico ha chiarito che per ora non c'è rischio di carenze di cibo, e si fanno anche i conti, però li ha fatti da noi la Coldiretti, su quanto rischia anche l'Italia, che noi esportiamo ogni giorno quasi 10 milioni di euro di cibo e bevande made in Italy in Gran Bretagna. Sappiamo che la Gran Bretagna poi è un paese del tutto non autosufficiente sulla produzione di generi alimentari, ma non solo, un paese che si basa molto sull'industria finanziaria, dei servizi, ha anche un po' di industria manifatturiera. La sterlina è arrivata a perdere quasi il 2% contro l'euro ed è il ribasso più forte tra sterlina ed euro da quando è iniziata la crisi pandemica. Tra l'altro sono arrivate poi varie dichiarazioni di esponenti del governo britannico per rassicurare, perché c'era chi temeva anche problemi veri e propri di approvvigionamento. Di questo parleremo, quindi di mercati, la Gran Bretagna è intesa come Brexit, e continueremo anche il nostro giro nelle categorie produttive. Perché lo dico? Perché oggi venerdì sera il Consiglio dei Ministri è stato via libera al decreto, non è un DPCM stavolta, è il decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie, ha assicurato conti ristori, l'aumento dei ristori, 650 milioni in più per ristoranti e bar che saranno chiusi anche quando, diciamo così, pensavano di essere aperti, visto quanto deciso il 3 dicembre. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, dunque, vedo molte notizie, molte domande sul tema britannico, perché non fate... faremo anche il check sulle previsioni degli anni scorsi quanto ad astrologia. Molti mi dicono, ma se la variante è stata riscontrata a settembre, chiudiamo i voli a dicembre. Ho capito, perché l'allarme del Ministero della Salute britannico è arrivato ieri, adesso abbiate pazienza. In Gran Bretagna, come avete letto, è successo che a Londra, nel sud-est soprattutto, hanno iniziato a registrare un aumento dei casi incredibile, e da lì hanno capito che era la variante. Però insomma, immaginate se non avessimo chiuso i voli dopo la denuncia del Ministero della Salute britannico, che polemiche vi sarebbero state. Comunque, andiamo avanti con le altre notizie in breve. Sui mercati, dicevo appunto dei cali che si sono un po' corretti, i cali rispetto alla giornata, però siamo intorno al 3%, 2,5-3%. Perdono, per quello che riguarda Milano, soprattutto Unicredit -4%, Eni -4%, e come Biperbanca Intesa San Paolo, Enel -3,90%, come Telecom in 3,80%, Saipem il 3,70%, Buzzi Unicem il 3,5 il calo di Era e di Generali, il 3,40 di ST Microelectronics, il 3,20 di Unipol e del banco BPM. È chiaro che, così mi collego anche alla borsa, c'è un calo abbastanza significativo del petrolio, quasi il 4% delle quotazioni a New York in calo, che si collega al ragionamento sulla variante britannica del virus, le restrizioni per contenere, cioè il ragionamento è se questo porterà a ulteriori restrizioni, la domanda di petrolio salirà meno e io mi riposiziono verso un calo del petrolio. Per quello che riguarda invece il Congresso americano ha raggiunto l'accordo per nuovi stimoli all'economia ieri per 900 miliardi di dollari, di cui 15 miliardi di dollari per le compagnie aeree, 82 per l'istruzione, un assegno da $600 per gli americani e $300 a settimana per chi richiede i sussidi di disoccupazione. In Europa l'EMA, intanto l'Agenzia Europea del Farmaco, ha dato via libera al vaccino Pfizer-BioNTech e stasera la Commissione Europea autorizzerà la commercializzazione. E l'EMA stessa ha detto: al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid. Segnalo che il numero uno della Criminal Poll, Interpol, Jürgen Stock, oggi ha detto: il vaccino è l'oro liquido del 2021. La mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate. Con la diffusione dei vaccini la criminalità aumenterà drasticamente in quei luoghi. Vedremo furti e furti in magazzini e attacchi alle spedizioni di vaccini. La corruzione sarà dilagante in molti luoghi per ottenere più velocemente questo bene prezioso. La faccia. Alla faccia così dell'ottimismo, Jürgen Stock. Di Gran Bretagna parleremo ampiamente dopo. La buona notizia di oggi è che lo spread italiano resta, dopo gli annunci anche della settimana scorsa della BCE, a livelli bassissimi, 116 punti. Dopo aver visto la manovra, oggi c'è l'ufficio parlamentare di bilancio, dice che l'anno prossimo non cresceremo del 6%, ma non oltre il 5%. Il check-up invece sul Mezzogiorno condotto dalla Confindustria con il Centro Studi SRM di Intesa San Paolo fa notare come l'anno prossimo la ripresa al sud varrà solo l'1,2%, anche se il calo quest'anno al sud dovrebbe essere meno forte del centro-nord. Il centro-nord dovrebbe perdere quasi il 10,9,8, il sud il 9%. Ma l'anno prossimo il centro-nord farà più 4,5, il sud più 1,2 e nel 2022 più 5,3% il centro-nord, più 1,4 il sud. L'altra buona notizia è che è cresciuto anche a novembre l'export italiano verso i paesi extraeuropei dopo la battuta d'arresto di ottobre. È un più 1,5% sull'anno prima, soprattutto per le vendite dei beni di consumo durevoli più 7,7%, beni intermedi più 7,2%, strumentali più 5%. È la Cina che abbiamo visto crescere più delle attese, più 8% PIL cinese, l'ultima stima di Fitch. È la Cina a segnare l'aumento più forte delle nostre esportazioni, più 35%, anche la Svizzera più 13%, ma gli Stati Uniti non sono da meno, con un più 5%. Faccio notare però che nei primi 11 mesi dell'anno, a questo punto, il nostro export verso i paesi extraeuropei è calato, oserei dire crollato, dell'11%. In realtà la bilancia commerciale si è mantenuta attiva perché è calato ancora di più, sono calate ancora di più le importazioni nei primi 11 mesi dell'anno rispetto al 2019, meno 16%. Allora, le domande al fondo di garanzia hanno toccato 1.532.000 per un totale di quasi 123 miliardi, di queste 1.000.000 sono fino a 30.000 euro per un totale di 20 miliardi di euro, e invece poi ci sono 177.000 domande per le garanzie sulle moratorie per 3 miliardi, quasi 4 miliardi di euro. Il resto va al 500.000 di domande più corpose. Comunque la cifra oggettivamente è imponente, se pensiamo a 1.500.000 di domande in tutto, di cui 1 milione solo per i 30.000 euro garantiti dallo Stato. Allora, il superbonus, sì, al di là della carica di misure sulla commissione di bilancio, sulla manovra, 300 emendamenti, si contano circa 100 micro norme entro i 5 milioni di euro, compreso un paio di misure da soli 100.000 euro per istituire il master in medicina clinica termale. Ci sono 240.000 euro per 6 borse di studio sulla criminalità organizzata, 4 milioni per i parcheggi rosa. Insomma, non ho, c'è dentro di tutto, però la cosa che volevo sottolineare è che il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha detto che per quello che riguarda il super bonus al 110% sono stati già prenotati 100 milioni di crediti d'imposta per 700 interventi. È stato prorogato, lo ricorderete, per il 2022. Per quello che riguarda il recovery, oggi il presidente del Consiglio Conte ha detto: non ci possiamo permettere ritardi, e su questo siamo tutti d'accordo. Dobbiamo trovare presto una sintesi efficace, dobbiamo discutere nel merito. In gioco c'è la credibilità del paese, io aggiungo anche del governo stesso, non solo del paese. E poi ha detto che il recovery plan dovrà essere un progetto nazionale e tornerà in Parlamento per l'approvazione. Nella prospettiva in particolare della programmazione legata al Recovery Fund, voi sapete, abbiamo già comunicato ufficialmente che al di là, diciamo, della discussione politica e delle polemiche anche che ci sono in questi giorni, dobbiamo assolutamente riprendere con la massima lena, col massimo vigore, la discussione sul Recovery Plan italiano. Non ci possiamo permettere agli occhi dei cittadini di ritardare oltre. Per questo oggi riprendiamo gli incontri con le delegazioni delle varie forze politiche, innanzitutto di maggioranza, per poter operare subito nei prossimi giorni la necessaria sintesi. Si può discutere di tutto, però dobbiamo discutere nel merito e dobbiamo trovare una sintesi efficace, perché non possiamo, ne va della credibilità del Paese agli occhi dei nostri cittadini che stanno soffrendo, ne va della credibilità del Paese in Europa. Dobbiamo al più presto quindi aggiornare questo stato di avanzamento del recovery plan, anche perché dobbiamo tornare a confrontarci con le regioni e gli enti locali, con le parti sociali, dobbiamo mandare il tutto al Parlamento in modo da acquisire quelli che sono ovviamente i necessari riscontri, tutti i suggerimenti necessari per poter poi elaborare il progetto nella sua versione definitiva, che, lo ripeto ancora una volta, tornerà ancora una volta in Parlamento. Allora, ancora due notizie, poi andiamo su meteo e poi iniziamo con gli approfondimenti. Allora, per quello che riguarda la Nielsen, ha fatto oggi un'indagine Nielsen Covid Sentiment Tracking, realizzata fra il 7 e il 12 dicembre. Temo che sia vecchia perché poi sono uscite le nuove disposizioni sulle restrizioni, ma già allora solo solo il 14% degli italiani dichiarava che si sarebbe spostato per Natale. Tra l'altro gli italiani sembrano essere i più preoccupati riguardo alla pandemia, perché il 64% dichiara di informarsi sul virus più volte al giorno, una percentuale doppia rispetto alla Francia, 30%, anche la Gran Bretagna 40%, la Spagna 56%, la Germania 55%. L'Istat ha confermato che anche nel 2019 vi è stato un calo record per la natalità, ma questo è da 7 anni consecutivi. 349-238-6666 SMS e WhatsApp, meteo, pubblicità e poi iniziamo a parlare delle borse. Focus Economia. Dietro la notizia. minuti. Allora, come sempre lunedì con Dietro la Notizia, anche se oggi andrebbe ribattezzata Davanti la Notizia, perché siamo dentro la notizia, perché ci occupiamo proprio del tema di attualità. Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te Sebastiano e buonasera a tutti. Anche se devo dire che dietro la notizia resta come approccio, perché la domanda che ma ti faccio... Ma hai detto, attenzione, è dietro la notizia, perché la notizia è quella che hai detto tu, giustamente, la notizia è questo primo tonfo di borsa dopo settimane di euforia, ma dietro la notizia cercare di capire perché, perché quello che abbiamo letto e stiamo sentendo in queste ore è molto lontana dalla realtà della borsa. Naturalmente gli analisti e i trader, quando gli chiedono perché la borsa cade, beh, l'alibi, anzi la questione del nuovo virus inglese, del nuovo virus del Covid inglese, è l'alibi perfetto, uno scudo che è inattaccabile in questo momento. Non a caso i titoli che hanno perso di più oggi sono nuovamente quelli petrolio, quindi trasporti e tutto il settore dei trasporti. Emergenza significa blocco dei viaggi o del turismo, quindi è andato a parlare lì. Ma in realtà dietro che c'è? C'è ben altro. Ci sono due partite importanti, una politica, perché l'approvazione che c'è stata ieri sera del 900 miliardi di piano di stimolo del governo americano è quello che rappresenta the news, cioè vendere sulla notizia. In queste due settimane il mercato ha corso aspettando quel piano, ricordiamocelo, è stato due settimane di record per i mercati, ma aveva dei fattori tecnici. Il secondo aspetto politico che pesa e bisogna considerarlo sui mercati americani è chi sarà il prossimo ministro del tesoro in America, perché la nomina sempre più certa della Yellen. Janet Yellen, l'ex governatore della Fed, ministro del tesoro, metterà uno contro l'altro, è un cambio a 360 gradi, un'inversione a U, diciamo letteralmente, della politica sul dollaro. Tenete presente che nelle ultime due settimane il dollaro era tornato ai livelli del 2019, soltanto negli ultimi due giorni, cioè tra oggi e venerdì, ha recuperato sei mesi di quotazioni. Questo è il sintomo, il segno evidente che i mercati si stanno aspettando un irrigidimento sulla politica del dollaro, ovvero dollaro più forte. Sotto Trump il dollaro era caduto ai minimi storici quasi. Questo influisce perché? Perché la ripresa del dollaro significa soprattutto, cominciamo dalla moda, i bitcoin. Oggi immediatamente i bitcoin sono caduti dopo questa corsa record. Perché? Perché si usano i dollari per comprarli i bitcoin. Se vendono bitcoin si incassano dollari, quindi il dollaro si rafforza. Se il dollaro scende, quando il dollaro scende, favoriscono gli investimenti più speculativi sul digitale come quello dei bitcoin, perché appunto avviene il fenomeno inverso. Ma questi sono i due elementi di, diciamo così, quindi per avere un primo punto, ecco. In questi giorni abbiamo discusso anche noi qui, ecco, Alessandro, con te, per un cioè primo... quello delle valutazioni. Tenete presente che siamo arrivati a oggi, che con te l'ultima volta abbiamo detto che Tesla aveva multipli sui profitti, il rapporto prezzo-utili di 1000 anni, siamo a 1300, addirittura 1400 la Daimler che è la Mercedes quota oggi, proprio per effetto di questa bolla speculativa che c'è stata, 1400 volte i suoi utili, anni che serviranno di utili per giustificare il prezzo. Tenete presente che le case automobilistiche normali, Fiat, Toyota, General Motors, Ford, hanno solo 18 anni di utili. Sì. Quindi è evidente che ci sono delle distorsioni sul mercato molto molto forti. Ecco, Alessandro, quindi le valutazioni devono scendere. Ecco. Un ultimo aspetto che sicuramente conta è che stiamo andando verso la fine dell'anno. Attenzione, perché la fine dell'anno è il momento anche del window dressing, cioè quando c'è la rotazione di portafoglio per mettere i titoli a valore. Oggi infatti ho visto dei titoli della Old Economy tradizionali, quelli proprio che non salgono mai, che oggi salivano. Quindi è evidente che i fondi di investimento stanno ricomponendo il portafoglio in modo da far vedere che hanno titoli a valore dentro. Per gli investitori che cosa c'è da fare? In questo momento intanto non c'è niente di drammatico all'orizzonte a breve termine, perché abbiamo visto le banche centrali che hanno garantito denaro a volontà per almeno un anno. Dobbiamo aspettarci però un riallineamento dei prezzi di borsa, perché effettivamente già negli ultimi giorni anche i grandi fondi di investimento o i grandi operatori come Bridgewater per esempio avevano denunciato chiaramente che, attenzione, perché a questi prezzi non si sta comprando del valore, ma si sta comprando semplicemente quello che fanno gli altri, cioè si segue il trend, si chiama momentum investing. Adesso questo momento si è fermato, adesso abbiamo particolarmente significativo secondo me il calo del petrolio, perché in questi ultimi giorni si era un po' ripreso, questo è un segno evidente che il mercato crede nell'emergenza e fra l'altro da quello che si vede comincia già a pensare, ecco, Alessandro, a una terza mi senti? Ondata. Mi senti? Sì, vi sento. Ok, perfetto, no, perché prima non riusciamo a collegarci. Allora, la prima pronto? Io ti sento bene. La prima cosa che tu hai chiarito è, attenzione, c'era anche un contesto di mercati in crescita, si dice variante inglese del Covid, però in realtà si chiama anche pretesto per vendere. Certo. C'è un altro ragionamento però che vedo fare, che potrebbe invece avere più dei fondamentali, come si dice in gergo. E cioè, attenzione, tutta la strategia di recupero economico dei prossimi mesi è legata all'applicazione dei vaccini di massa, alle vaccinazioni di massa. Qui non i virologi dicono non dovrebbe avere, non ci risulta che abbia un impatto sui vaccini, ma qualcuno può iniziare, l'abbiamo visto anche col petrolio, dire beh, e se per caso la ripresa ritardasse? Allora, il punto è questo: sull'aspetto dei vaccini, per tutte, diciamo così, le ricognizioni che ho fatto tra gli operatori, in realtà sanno tutti che la vaccinazione di massa non esiste, non è possibile, non è attuabile, ma comunque nella migliore delle ipotesi prima della fine del 2021, metà 2022, non si riuscirebbe ad avere una copertura, una garanzia totale di vaccini da sterilizzare completamente il rischio del contagio. Quindi il mercato ha già messo una scadenza, diciamo così, a medio termine, non brevissimo, sul rischio di non avere i vaccini salva economia. Ma il problema, ripeto, non è soltanto questo, perché come abbiamo visto la trasformazione digitale dell'industria va avanti pandemia o non pandemia. Cioè, qui stiamo vedendo in questi giorni, io ho visto tanti di annunci di grandi investimenti sul digitale da parte di imprese tradizionali. Abbiamo visto l'aumento drammatico, guardate, questa è una cosa che dobbiamo stare molto attenti, degli attacchi, dei cyberattacchi, sì, certo, con virus e con operazioni proprio di terrorismo informatico. È stata attaccata 4 giorni fa la società che controlla più della metà delle società quotate, dei sistemi di sicurezza informatica, dei più della metà delle società quotate al mondo, in Italia, a clienti che sono le nostre blue chip, anche le aziende di Stato. E questo è quello che dovrebbe garantire la sicurezza digitale. Quindi l'economia sta andando avanti, ma certamente quello che soffre e che si pagherà sicuramente, pagherà un prezzo altissimo, è tutta la struttura dei servizi tradizionali. Lì è una questione drammatica, perché evidentemente l'emergenza, e attenzione perché pesa anche sui titoli di borsa, e su questo bisogna fare un'ultima parentesi che è anche divertente. Se andiamo a guardare bene chi sono le società quotate del settore alberghiero, che cosa vedremo? Che quelle che perdono di più in borsa per effetto dell'emergenza sono quelle che controllano asset fisici, ovvero gli alberghi veri e propri. Quelli che invece sono quotati in borsa ma fanno soltanto da holding, beh, quelli continuano a tenere testa, perché la non proprietà, la non esposizione a beni reali sta sicuramente giovando alle imprese che sono quotate. La ripresa ovviamente, teniamo presente questo, tutti i dati che leggiamo in questo, che continueremo a leggere per i prossimi 6 mesi almeno, sono dati drogati dall'effetto degli aiuti. Teniamo presente che da marzo a oggi sono stati erogati, in termini di aiuti di bilancio dei governi, quindi non aiuti monetari delle banche centrali, più di 10.000 miliardi di dollari a livello mondiale. 4.000 miliardi fanno riferimento all'Europa e il resto sono grossomodo gli Stati Uniti e la Cina. Insomma, questa è una spinta enorme. A questo che cosa aggiungiamo? 120 miliardi di dollari al mese, che è cominciato a giugno da parte della Federal Reserve, di liquidità per i mercati. Ci sono i 700 miliardi della BCE, a cui si aggiungono altri 1.000 miliardi con il rafforzamento che c'è stato. Insomma, c'è una rete di protezione sotto il mercato che non permette alle borse di cadere per un motivo. Secondo i calcoli degli economisti, l'effetto della finanza sulle imprese americane, quindi la finanziarizzazione delle imprese, è pari al 130% del PIL americano. Quando dico finanziarizzazione parlo di debito, per esempio, bond. Allora, è chiaro che l'effetto dei tassi di interesse o la stabilità dei mercati diventa necessario per tenere stabile anche l'economia reale, perché è talmente finanziarizzata che una caduta dei mercati diventerebbe la caduta alla frana dell'economia. E su questo, diciamo, da lì appunto reti di protezione e difficoltà, mettiamola così, per le borse di crollare. Alessandro Praterotti, grazie, noi ci risentiremo, no, perché dal 27, dal 28 noi torniamo in versione festiva, quindi solo per un'ora il programma. Auguro buon Natale, a questo punto anche buon anno Alessandro Praterotti, che riavremo dal 7 in poi, a gennaio, ma già nel 2021. Was a Guadalupe good time. You're so easy to love. He's my African man. He's my African man. Now that's a turn on. Allora, questo è un ragionamento complessivo su borse, pretesto o non pretesto. E a Platerotti ha detto, insomma, c'è anche una grossa fetta di pretesto, di scusa, visto l'andamento dei mercati di queste ultime settimane. Poi andiamo però adesso, vista la giornata, anche sui singoli titoli, singoli settori, perché il petrolio è quello che è calato molto a Wall Street e quindi ha trascinato con sé i titoli petroliferi: Eni meno 4,40, Saipem meno 4%, petroliferi energetici in generale meno 3,70%. Vedo in calo anche significativo le banche: Biper meno 4, Unicredit meno 3,90, Intesa San Paolo meno 3,5%. Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti. Perché petrolio, cioè i titoli petroliferi, l'abbiamo detto, perché le banche e diciamo dove ha colpito di più questa non rotazione, ma queste, insomma, queste vendite un po' anche sul pretesto della variante britannica del Covid? Ma sì, sono d'accordo con te, infatti la premessa necessaria è che le borse hanno corso tantissimo. E anche a mio parere oggi chi poteva, anche verso la chiusura dell'anno, ha scaricato un po' di titoli, sì, che ripeto, erano salite veramente tanto. Poi vabbè, c'è sicuramente una componente legata a questa cosiddetta variante inglese, allora le vendite si concentrano su quei titoli che sono un po' più legati all'economia, quindi i cosiddetti titoli ciclici, perché si presume che nel caso tornassero delle restrizioni diciamo significative, nel caso diciamo questa variante, anche se gli esperti hanno già detto il contrario, si verificasse che non, diciamo, i vaccini non rispondono più, allora anche l'economia e la congiuntura, che è stimata in forte ripresa nel 2021, potrebbero risentirne. Quindi sicuramente le banche vengono colpite, sicuramente i titoli industriali e poi, come dicevi tu, anche i titoli petroliferi. E i titoli petroliferi, si è salvato qualcosa oggi sul mercato, in questo caso forse a rotazione, vedo CNH e Diasorin soprattutto. Sì, diciamo che Diasorin diciamo, essendo un'azienda biomedicale, poi ha un andamento, ma questo si è visto già negli ultimi mesi, che diciamo è proporzionale a quello che è il termometro dell'andamento del virus. Quindi quando arrivano notizie positive, tipo vaccini o comunque casi che calano, Diasorin va male. Quando la situazione si aggrava, ma questa è una questione business, Diasorin è risale. Qui forse c'è l'unico ragionamento vero e non pretestuoso. Do anche i migliori e i peggiori. Tenax International più 13, Eukedos più 13, Cyberu più 10, Prismi più 7, peggiori in assoluto, Portale Sardegna meno 8,90, Intel meno 7,90, Acote Group meno 7,50, l'aeroporto Guglielmo Marconi meno 6,70%. Grazie anche a Ceo Condina, Radio Cori sulle 24 ore. Andiamo adesso sul traffico. Poi parliamo, cambiamo dalla finanza e le borse, andiamo direttamente sull'economia reale, come si chiama in gergo, perché è arrivata l'approvazione per decreto, no, del il Consiglio dei Ministri, ha dato via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie, con anche una nuova fetta di ristori per 645 milioni. Perché? Perché anche chi è in zona gialla non potrà, penso ai ristoranti e bar in primis, ma non solo, non potrà aprire nelle giornate, cioè praticamente si diventa tutti rossi e arancioni, quindi non si potrà aprire in quei giorni, ma con una conseguenza appunto su quello, su chi immaginava invece un periodo un po' diverso, magari non spostamenti tra regioni, tra comuni, ma sia l'apertura della ristorazione e dei bar, con conseguenze però anche sull'attività nella zona rossa, sulle attività commerciali, perché sappiamo che è tutto chiuso tranne i negozi di necessità, mentre quando sei arancione, e quindi i tre giorni, i quattro giorni, 28, 29 e 30, i tre giorni lì riaprono i negozi. Ne parliamo con chi rappresenta il mondo dell'artigianato, ma dopo il traffico. Focus Economia. Sì, dicevo, il governo non con DPCM ma con decreto ha esteso in tutta Italia la zona rossa 10 giorni, appunto 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Invece poi c'è la parte arancione che riguarda il 28, 29 e 30, con tutti i dispositivi, per cui lo spostamento verso abitazioni private tra le 5 e le 22, anche all'interno di per i comuni si può andare da un comune all'altro se sono sotto i 5.000 abitanti fino a un massimo di 35 km, anche, l'ha chiarito poco fa il governo, anche se lo spostamento in un'altra regione, se tu vieni da un comune sotto i 5.000 abitanti ti rechi in un comune, ma non puoi andare nel capoluogo di provincia, e comunque per il resto tutti gli spostamenti anche nelle seconde case possono avvenire solo dentro la regione. Nei giorni di zona rossa saranno quindi chiusi i centri estetici, bar, ristoranti e anche gli altri negozi. Restano aperti soprattutto i supermercati, i negozi alimentari di prima necessità, parrucchieri, barbieri. Chiusi i centri commerciali, mentre poi riapriranno per quei tre giorni di zona arancione, diciamo così, ma non i bar e i ristoranti. Allora, io ringrazio il neo presidente di Confartigianato Marco Granelli per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Granelli. Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti. Allora, arancione 28, 29, 30 e anche il 4 gennaio, in cui ti puoi spostare all'interno del tuo comune, però appunto con l'eccezione di chi è sotto i 5.000 abitanti, ma non può andare nel capoluogo di provincia. Allora, chiaramente rispetto al 3 dicembre voi vi aspettavate magari una zona arancione anche in altri giorni, nel senso è la rossa che fa chiudere i nuovi negozi tranne appunto quelli di prima necessità. Il governo però ha annunciato 645 milioni per ristoranti e bar. Sì, dottor Barisoni, guardi, noi siamo consapevoli che questa emergenza sanitaria continua, quindi vediamo anche i numeri fra contagi e fra morti che purtroppo continuano a essere tanti. E quello che oggi facciamo, abbiamo consapevolezza del fatto che oggi non riteniamo che i ristori siano una cosa assolutamente oggi poco proporzionata rispetto alle perdite che tanti nostri artigiani che sono nella filiera appunto della ristorazione e del turismo, però noi riteniamo che questo calcolo vada parametrato in un lasso di tempo più ampio, cioè noi immaginiamo di fare una cosa come ha fatto la Germania, cioè tarato sui 6 mesi, ma quello che oggi noi attendiamo di più è che accanto a queste misure che per noi sono importantissime perché in qualche parte leniscono le perdite che tante nostre aziende purtroppo stanno subendo e per tante situazioni che stanno affrontando nella quotidianità, ma noi vogliamo sperare, siamo degli artigiani, siamo persone che sperano e pensano che le nuove proposte che verranno, le nuove misure messe in campo con il recovery siano misure cui noi aspiriamo e attendiamo anche molte risposte a questa situazione così difficoltosa. Ecco, sì, su questo, visto che adesso la manovra è in discussione, ma ho visto che l'ipotesi per l'anno prossimo, a partire dalle partite IVA degli autonomi, è di ragionare con dei ristori, chiamiamoli così, che vadano a guardare però non solo il mese, perché qui fa ancora fede il mese di aprile, certo, ma che vadano a guardare un periodo di tempo più lungo, sei mesi. E noi abbiamo proposto quello, facendo un raffronto con l'andamento dei 2 anni o 3 anni precedenti, adesso, esatto, perché esatto, quello dà una fotografia obiettivamente, cioè guardare, certo, ad aprile rischia di avvantaggiare tra virgolette, perché nessuno è veramente avvantaggiato, però chi fatturava tanto ad aprile e magari meno in altri mesi, e invece all'opposto chi a aprile aveva scarsi guadagni, pensiamo al mondo del turismo nelle località magari montane e anche di mare, e invece li aveva in altri mesi che non sono parametrizzati. Senta, dal punto di vista occupazionale invece, sì, voi avete 85.000, ci sono 85.000 imprese artigiane per 276 mila addetti nel settore alimentazione, ma complessivamente sono 285.000 imprese artigiane, esatto, con 812.000 addetti. Esatto. Quali sono le criticità? Al di là dei settori in cui operano, è chiaro che se tu sei una pasticceria, una gelateria, hai difficoltà più di altri. Cioè, oltre al settore ristorazione e bar, quali criticità notate negli altri vostri associati? Allora, guardi, se dovessimo fare una classifica di tutti i settori, direi che proprio in fondo, diciamo, la classifica mi sta alla moda, soprattutto dei componenti d'arredo, quindi l'arredo mobili. E quindi questi sono i settori che sono stati colpiti più pesantemente, assieme a tutti quelli che oggi organizzano eventi, pensi tutto al mondo fieristico, pensi al mondo del trasporto anche delle persone. Quindi quelli sono gli settori che sono stati maggiormente falcidiati da questa situazione e su cui appunto si spera e si auspica che ci possano essere delle misure che li facciano ritornare in una situazione di più serenità. Diversamente, oggi, se non ci fossero misure adeguate in questi ambiti, avremmo una perdita consistente di queste aziende e quindi di conseguenza anche un'occupazione per tante famiglie messa a dura prova e messa molto a rischio. E sul fronte cassa integrazione, perché le vostre imprese sono piccole di solito, quindi non avevano la cassa integrazione ordinaria, neanche quella straordinaria, hanno spesso avuto la cassa integrazione in deroga. Sappiamo che all'inizio è stato un casino perché bisognava passare dalle regioni, poi il governo ci ha messo, diciamo, una modifica, non voglio dire una pezza. Vorrei capire se ancora ricevete molte segnalazioni sulla cassa in deroga. Allora, noi abbiamo il fondo, diciamo, l'FSBA, no? Il fondo della bilateralità. Questo ci ha consentito, nei primi tempi abbiamo fatto fatica ad avere degli incassi regolari che consentissero alle aziende di essere puntuali. Tenga conto che molte volte in tante nostre aziende, siccome i collaboratori sono il vero nostro patrimonio, diciamo, sono stati gli stessi imprenditori che hanno anticipato. Oggi la situazione si va, diciamo, normalizzando, per cui grazie a proprio questo fondo di solidarietà stiamo sopperendo anche a questa situazione. Certo è che, ripeto, è una situazione questa che è sempre fatta all'insegna della precarietà, no? Quindi si naviga un po' a vista. Quello che ci si attende appunto è oggi una pianificazione che, ripeto, speriamo si possa fare a breve tempo. Insomma, quello è un po' un'aspettativa che noi abbiamo sul fatto di spendere bene e di mettere in moto queste risorse europee che credo che ci daranno. Vabbè, adesso è anche la legge di bilancio, perché adesso sarà importante lì capire l'eco bonus, la proroga. Allora, ho visto anche il bonus mobili, stanno ragionando, no, perché poi non in concreto i suoi associati nel salutarla sono molto interessati anche a tutta la parte che riguarda l'eco bonus, perché imprese artigiane sono coinvolte, e anche nella parte, diciamo, del settore dei mobili arredo, no, Granelli? Assolutamente, guardi, le dico che oggi il super bonus noi la riteniamo una misura indispensabile per il lancio di un comparto. Tenga conto che è un comparto che tocca quello delle costruzioni, ma che attiva una filiera enorme. Lei pensi, certo, legno, plastica, arredo, materie prime, trasporti, impiantistica, quindi tutta una serie, diciamo, di categorie. Sì, ma tanto a me sembra anche studiata bene, perché potendo dare tu il 100% lo giri o all'impresa che ha fatto i lavori o alla banca, che poi a quel punto va a scontare il 10%, ci guadagna sul 10%, ce lo rigira a sua volta. Insomma, l'abbiamo spiegato, il fatto che tu possa anche non tirare fuori un euro, esatto, rinunci chiaramente al 10%, ma il 100% del costo lo giri in un periodo di difficoltà economica e di mancati incassi e di mancati stipendi. Beh, è importante, perché un conto è dire lo faccio e poi vado in credito di imposta, ma intanto tu il problema ce l'hai in questi mesi probabilmente, quindi mi sembra un'ottima misura quella di poter dire giralo alla ditta appaltante o alla banca, che poi a quel punto va a guadagnarsi. In una battuta, perché sto chiudendo, Granelli. Tenga conto che oggi occorre anche qui una temporalità lunga estesa, perché oggi le aziende che devono fare questo tipo di attività hanno bisogno anche lì di avere avanti un lasso di tempo che gli consente di pianificare il tutto. E quindi questo è per noi importantissimo, e soprattutto sburocratizzare anche la procedura. Perché oggi questa è abbastanza veloce. Grazie Presidente Confartigianato Marco Granelli, GR24. 2020, l'anno della grande paura globale che ha quasi spento le altre notizie. Eppure il mondo non si fa fermare neppure dalla pandemia, e come sempre noi ve lo raccontiamo. Sono Gigi Donelli e vi aspetto giovedì 24 dicembre alle 19:15 e il giorno successivo, il giorno di Natale, subito dopo il GR delle 8, per ripercorrere con tutti noi di Radio 24 gli eventi di un anno destinato a restare impresso per sempre nella nostra memoria. Infatti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Focus Economia. Non è venerdì, è lunedì, ma dobbiamo recuperare, come sa chi ha ascoltato la puntata di venerdì, anche la startup che sempre segue la poco invidiabile classifica del venerdì. E quindi saluto di nuovo, perché siamo riusciti solo a salutare la volta scorsa, Gabriele Giuliano, fondatore e amministratore delegato di Tutor Red. Buonasera Giuliano. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Allora Giuliano, vorrei sapere, insomma, lei quanti anni ha, che cosa fa Tutor Red, quando l'avete fondata, quanti siete, quanti anni ha lei, quanto fatturate, chi vi ha aiutato, un fiorino. Benissimo, allora, io ho 28 anni, ma la battuta la capisco, quindi... diciamo. Vabbè, non è che Troisi e Benigni non si possano vedere sotto i 30 no, anni, prego. Assolutamente, e ho fondato questa startup insieme ad altri due ragazzi a Roma 6 anni fa. Questa startup si chiama Tutored ed è un punto di incontro digitale che permette agli studenti di trovare lavoro nelle aziende qui in Italia. Attualmente abbiamo una crescita di fatturato, 3 anni fa abbiamo iniziato con il nostro modello di business, permettiamo alle aziende di entrare nella nostra piattaforma e di creare annunci di lavoro, creare contenuti per raccontare il loro ambiente aziendale, e di conseguenza tutti gli studenti iscritti hanno la possibilità di candidarsi e ottenere un primo colloquio lavorativo. Ecco, lei ha 28 anni, cosa faceva prima di fondarla? Io ho fondato Tutored durante l'università, quindi stavo studiando all'università. Dove? Insieme ad altri a Roma, in marketing d'impresa, e poi successivamente ci siamo trasferiti a Milano, dove adesso abbiamo la nostra sede, ma diciamo in parallelo al lavoro continuo a studiare e sto frequentando un MBA al Politecnico di Milano. Ok, e quanto fatturate? Perché forse me lo sono perso. No, ancora non l'ho detto. Attualmente prevediamo di chiudere l'anno con un fatturato di 680.000 euro, che rappresenta una crescita rispetto allo scorso anno, in quanto anche noi ovviamente siamo stati colpiti dalla pandemia, soprattutto per il primo lockdown, dato da un terrorismo psicologico. In realtà questo Covid Come terrorismo psicologico? Diciamo da un punto di vista che nel momento in cui è arrivato il primo lockdown tutte le aziende si sono un attimo frenate per capire come, diciamo, andare poi avanti. Il Covid per noi, in maniera un po' cinica, è un'opportunità, in quanto digitalizziamo completamente le strategie di recruiting delle aziende e di conseguenza oggi i recruiter, le persone che lavorano nei dipartimenti HR delle aziende vedono Tutored come un'opportunità per non bloccare le loro strategie di recruiting, ma continuarle attraverso la nostra piattaforma. Chi vi ha aiutato? Allora, da un punto di vista finanziario, noi siamo entrati nel programma di accelerazione della Luis Ellabs, nel 2014 a Roma, dove abbiamo appunto ottenuto un primo round di investimento di 60.000 euro, e poi andando avanti, portando dei risultati a casa, ci siamo proposti agli investitori, dove abbiamo chiuso vari round di investimento. Tutti investitori italiani, sono per lo più due fondi di investimento qui in Italia, e persone, differenti persone che hanno creduto nell'impresa e hanno investito. Senta, mi chiede un ascoltatore, ma voi siete paralleli quindi ai Tutor? Cioè i Navigator, perché insomma, se ho ben capito, Tutored mette in croce le possibilità di fare recruitment, quindi di cercare personale, cioè gli studenti possono realizzare un curriculum e poi gli utenti possono anche partecipare a webinar formativi, ma insomma è un'alternativa ai Navigator o TutorEd? No, sicuramente non siamo posizionati su questa tipologia di mercato. Noi ci riteniamo un'alternativa innovativa agli uffici placement delle università. Oggi uno studente universitario fondamentalmente per trovare lavoro va nell'ufficio placement dell'Ateneo e dice: io sto per laureare, voglio trovare un'opportunità di tirocinio. Ecco, noi vogliamo innovare completamente questo sistema. Ok, i dipendenti me li sono persi io forse. Siamo un team... Pronto? È il telefono però no, siete un team? Pronto? Siamo. Mi sente? Sì, adesso sì. Ok, siamo un team di 18 persone, basato a Milano. E con che contratti? Contratti dei dipendenti, diciamo per lo più indeterminati, e alcuni contratti in apprendistato. Ma avete in procinto di assumere? Sì, soprattutto nel settore IT e nel settore marketing. Bene, e allora in bocca al lupo a lei e quindi a Gabriele Giuliano, anche per la giovane età, che è sempre una cosa in più che apprezziamo, fondatore e amministratore delegato di TutorEd, e per i 18 dipendenti nella speranza che possano aumentare. Chi ha memoria di questo programma sa che quando partono i Sex Pistols con God Save the Queen, di solito parliamo della Gran Bretagna e di solito non per cose bellissime. Perché insomma è successo di tutto. Allora, da un lato l'abbiamo chiamato questo blocco prove tecniche di Brexit, ma come ironia un po', perché in attesa di capire se in zona Cesarini all'ultimo secondo si troverà un accordo, anche se il Parlamento europeo ha già fatto sapere che non riuscirà comunque a approvare l'accordo entro l'anno, perché dicono da Bruxelles i giochi politici di Westminster hanno sprecato troppo tempo, adesso non riusciamo a valutare un accordo prima della fine dell'anno, non siamo un passacarte, non possiamo solo mettere un timbro all'accordo, lo ha twittato il presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber. Dalla Gran Bretagna intanto arriva notizia da Downing Street che un accordo è ancora possibile ma difficile, date le persistenti divergenze su alcune aree significative. Nel frattempo si è abbattuto sulla Gran Bretagna anche la variante, diciamo, inglese del Covid. Allora, non c'è rischio di carenza di cibo, dice il ministro dei trasporti britannico. La Coldiretti italiana è preoccupata perché sono a rischio 9.300.000 euro ogni giorno di cibo che viene, e bevande che vengono acquistate made in Italy in Gran Bretagna. Abbiamo visto un calo della sterlina. Che cosa è successo? Si è bloccato l'accesso alla Gran Bretagna, non solo. Allora, c'era già una coda pazzesca a Folkestone e a Dover prima che arrivasse l'annuncio di domenica di ieri del Ministero della Salute. 30 chilometri di camion. Questo per il timore della Brexit, perché chi poteva fare scorte, quindi beni non deperibili, le ha iniziate a fare. Hai visto mai che non ci sia accordo, che iniziamo a avere merci bloccate alla dogana, perché dal 1 gennaio la Gran Bretagna diventa tutta extraeuropea. Iniziamo a fare le scorte. Nel frattempo però la Francia ha bloccato anche, oltre che i viaggi in aereo, per 48 ore anche il trasporto merci tra le due sponde della Manica, questo per motivi del virus britannico con questa grande capacità di infettare. E come se non bastasse, Londra è andata nella fase più alta, io l'ho chiamato insomma un rosso porpora, perché loro hanno tre livelli, tier 1, tier 2, tier 3, e hanno messo anche il tier 4, il nuovo livello di allerta massima, e si è assistito nella notte, tra mezzanotte, tra sabato e domenica, di treni stracolmi, autostrade intasate, biglietti esauriti per andarsene proprio da Londra, migliaia di persone prima che scattasse il nuovo lockdown. Ci colleghiamo con Leonardo Maisano. Leonardo, buonasera. Buonasera a voi. Sei a Londra intanto, prima domanda, o sei scappato? Sì, sono a Londra. Allora ti chiedo da cronista in primo luogo, perché qua arrivano racconti, poi non si capisce mai se il racconto di un singolo poi possa essere preso a livello emblematico di quello che sta capitando. È una specie di tempesta perfetta, nel senso che la Brexit non si chiude, Londra ha una nuova difficoltà nella gestione della pandemia e va su un livello più alto possibile di lockdown, con migliaia di inglesi in fuga. Nel frattempo, dopo aver visto le code di camion Dover e Folkestone di merci, adesso è arrivato anche il blocco dalla Francia. Vorrei capire intanto che Londra è quella che tu hai girato oggi. No, è una Londra abbastanza deprimente, perché anche il tempo non aiuta, voglio dire, questa è una quello costante, diciamo è la cosa minore, però, forse. Però sì, certo, però voglio dire, contribuisce a creare un'atmosfera particolarmente deprimente. Sì, in questo momento c'è un'atmosfera di grande depressione a Londra, come dicevi tu, c'è stata una tempesta perfetta, perché questa combinazione di eventi sembra quasi, come dire, fatta apposta per creare una situazione di disagio estremo. In questi minuti, mentre stiamo parlando, Boris Johnson sta facendo una conferenza stampa, quelle che sta facendo in questo momento quotidianamente, in questo periodo quotidianamente, ha annunciato che le code a Folkestone si sono ridotte moltissimo, da 500 mezzi a 170, però oggi Sainsbury ha detto: così non possiamo durare molto, cioè se questo blocco... Sainsbury, ricordiamolo, è una catena di grandi magazzini importantissima. Diciamo. Sì, è la catena della distribuzione alimentare più diffusa, perché altre sono più diffuse, ma insomma, di quel medio livello che colpisce molto, come dire, i ceti medi britannici, e ha detto chiaramente: non abbiamo, c'è il rischio che prodotti freschi possano non arrivare nei prossimi giorni se questa situazione si protrae. Sembra che la situazione non si debba protrarre, perché dalle notizie che arrivano dalla Francia, dagli altri paesi europei, una soluzione starebbero cercando di trovarla per sbloccare quantomeno le merci, però ripeto, non c'è immagine più azzeccata della tempesta perfetta che hai detto tu. Ecco, questo sblocco delle merci riguarda il tema, diciamo, virus britannico, non il tema Brexit. Sì, assolutamente, il tema virus britannico, perché il problema è che se poi tu entri, i guidatori dei mezzi temono di entrare in Inghilterra e poi di dover fare la quarantena quando vengono in Francia, non poter ritornare, certo. O magari non poter proprio letteralmente ritornare, perché in questo momento è bloccato l'accesso. Quindi di rimanere in... Allora, io non amo marmaldeggiare, non lo farò neanche queste volte, figuratevi, però quando ho detto prove tecniche di Brexit, è chiaro che, per carità, questa è una tempesta perfetta, si è abbattuto in un secondo, però voglio dire, pone anche una riflessione, immagino, all'opinione pubblica britannica e britannici su quello che potrebbe accadere in maniera più strutturale in mancanza di un accordo. Ora, non il blocco, perché nessuno farà un blocco, ma diciamo un maggior problema, quello sì, nello sdoganamento delle merci quando arrivano appunto a Dover o a Folkestone. È chiaro che c'è un effetto anche psicologico, però sembra quasi un test estremo di una Brexit senza accordo. Sì, sembra quasi che non si rendessero conto, che di colpo si possano rendere conto della dipendenza che hanno nell'approvvigionamento delle materie prime, francamente, e non solo dall'Europa continentale. Sembrava quasi, come dire, che si desse per scontato che questa dipendenza o non c'era o sarebbe stata, come dire, gestita comunque. È bastato un fatto gravissimo, acuto, come quello in corso in questo momento, per dimostrare esattamente il contrario. Questo passerà nell'opinione pubblica? Io penso che il messaggio della follia della Brexit, che perlomeno a mio parere è così, sia già passato. Cioè io tendo a credere che la maggioranza dei britannici, se dovessero votare, non voterebbero a favore della Brexit, con un margine minimo, intendiamoci, perché poi il paese resta spaccato, ma comunque non voterebbero a favore. E qui vengo all'altra domanda di carattere più politico. Allora, ovvio la Gran Bretagna è molto diversa dall'Italia, però qui abbiamo un governo che sul recovery plan, dove sul recovery plan si è aperta una verifica, che è un modo buono per dire che c'è una crisi, ma non è ancora una crisi conclamata del tutto. A me ha sorpreso personalmente anche vedere che il dibattito parlamentare, cioè di fronte a un'incapacità nel riuscire a fare un accordo con la Gran Bretagna, con l'Europa, scusami, in un periodo molto molto turbolento come quello del Covid e della pandemia, voglio dire, un conto è l'opinione pubblica britannica, ma noi sappiamo che esistono anche le maggioranze parlamentari, cioè il mondo conservatore, te la dico ancora più piatta, però non mi sembra che abbia preso tanto le distanze da Johnson. Non si è cercata un'alternativa, anche quella che noi chiameremo una maggioranza parlamentare diversa? No, la maggioranza parlamentare diversa no, perché il sistema comunque non lo consente, la mentalità e la logica politica non consentono di entrare in queste logiche di coalizioni possibili o potenziali, eccetera. Quello che invece è passato, e non per la testa di molti deputati parlamentari, è far saltare Johnson, cioè se Johnson davvero non si dimostra in grado di gestire, come francamente continua a dimostrarsi di non essere in grado di gestire in modo adeguato questa emergenza, le voci di una parli dell'emergenza sanitaria o della Brexit, scusami? Entrambe le cose, in particolare l'emergenza sanitaria adesso, entrambe le cose potrebbero diventare un elemento per far saltare, cioè il partito conservatore che cambia primo ministro, il leader del partito e quindi il primo ministro in corsa, è già successo in passato, non ultima la Thatcher, in una situazione meno estrema di quella di adesso, perché era una situazione che era stata innescata dalla famosa poll tax, eccetera. Certo. Poi quello che determina l'azione del partito conservatore, che è un partito estremamente spietato nei confronti dei propri leader, sono i sondaggi, come quello che dice il trend in cui va l'opinione pubblica. E in questo momento, a differenza di prima, c'è un leader del partito laburista, Keir Starmer, che sta guadagnando credibilità, ha ricollocato il partito al centro, nel centro-sinistra, rispetto alla parte estrema che era stata quella di Corbyn, e quindi c'è un'opposizione credibile. Questa opposizione credibile è una spina nel fianco per Boris Johnson, perché se lui continua a perdere credibilità, il partito lo fa fuori. Allora, nel frattempo vedo che EasyJet ha chiarito di aver mantenuto il suo collegamento verso il Regno Unito, quindi all'Italia e Ryanair hanno cancellato i voli per consentire ai propri clienti di tornare a casa. Dunque sto leggendo assieme a voi, per tutti i voli DAE per il Regno Unito che sono vietati dalla normativa dei governi dell'Unione Europea, tutti i clienti interessati riceveranno una notifica via mail con le soluzioni alternative, inclusi i cambi data gratuiti. Vabbè, quindi non tutte le compagnie aeree, perché quello che sto chiarito è che è l'obbligo di vaccino. Adesso vedo anche un Johnson che ha appena annunciato, che nella conferenza stampa qui tu facevi riferimento, che più di 500.000 persone nel Regno Unito hanno già ricevuto la prima dose del vaccino. Ultima domanda e poi andiamo sempre lì. Alla luce delle dichiarazioni europee, cioè il Parlamento dice non ce la facciamo, il Parlamento europeo a valutare un testo, non possiamo solo mettere il bollino, non siamo dei passacarte. Che prospettive si aprono per la Brexit? In Italia noi sappiamo che quando non si riesce a approvare la legge finanziaria entro fine anno si va in un periodo di transizione, diciamo, di quella che potremmo chiamare gestione ordinaria. Sì, dovranno inventarsi qualcosa del genere, ma io credo che comunque alla fine i tempi, almeno per la stesura dell'accordo, e poi si inventano, come dire, uno slittamento di 48 ore o di 72 ore per l'approvazione parlamentare, sia poi alla fine una soluzione inevitabile che diventa anche politicamente sostenibile per Boris Johnson. Quello che diventerebbe politicamente insostenibile è far passare il 31 dicembre senza un accordo. Poi la ratifica, come dire, diventa un fatto più tecnico. Sì, vabbè, vai in gestione così straordinaria finché non c'è la ratifica, mettiamola in questo modo, però dici politicamente almeno chiudi l'anno con un accordo. Staremo a vedere. Non mi hai detto una cosa, perché qui riguarda più la cronaca, ho finito, Ma questo esodo c'è stato poi nella notte tra sabato e domenica? Cioè, sì, c'è stata molta gente è partita, bastava guardare, io ho guardato per curiosità i treni degli Eurostar per Parigi, eccetera, si sono riempiti nello spazio di 2 ore, cioè, e quindi l'esodo c'è stato. Allora, grazie anche a Leonardo Maisano in questa Londra così particolare, città a cui tengo personalmente moltissimo. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani in diretta dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.